Dai di cacciarlo via. Per lui morì, non era colpa mia. Che brutta morte sotto un trattore. Mi grattai le palle senza pudore. Ed io mi sentivo superstizioso. Sto passato sotto una scala e mi mancò poco una pala. Sto rodeando falcia un passante, mi capitando anche il bimbo pimpante. Meno male che avevo toccato, se no sarei già trapassato. Per aver stimolato troppo i miei coglioni.